semplificazione. Allora, a lei. Grazie. Ringrazio la professoressa Fasoli. Devo dire subito che questa esemplificazione sarà ancora più povera di quanto io non temessi preventivamente, dal momento che quello che sto per presentare è, lo confesso apertamente, solo una parte del lavoro che avrei dovuto leggervi oggi. Lo dico subito, quindi io leggerò prima la parte che ho letto e che ho scritto, e per la seconda parte della mia esemplificazione ne tenterò una rapida esposizione a braccio, che del resto in parte, questo lo dico non certo per scusarmi, ma perché è la verità, in parte avevo previsto perché dovrebbe comportare una certa lettura da parte mia di testi appunto esemplificativi. Kierkegaards Leben, vita religiosa. Se non ho mal compreso il senso complessivo della formulazione, se cioè la dizione italiana non casualmente ripete il titolo della nota sintesi di Giovanni Miccoli, le considerazioni che ci si attende da questo contributo dovrebbero trovare la propria giustificazione in un territorio tematico quanto più possibile comune a due ambiti non perfettamente coincidenti. Quello delle istituzioni ecclesiastiche, per le quali possiamo senz'altro assumere la definizione datane da Cinzio Violante di sistema di organizzazione e di inquadramento dei fedeli, i cittadini nel nostro caso, nella loro partecipazione alla vita religiosa, e l'altro, della vita religiosa stessa, espressione e realizzazione del rapporto del singolo, per noi in quanto civis, o della collettività civica con il sacro, attraverso, come appunto si esprimeva il Miccoli, però avvertendo che è definizione empirica, forme pubbliche, sistematiche, organizzate. Territorio tematico comune, tuttavia solo in parte, seppure per larga parte. Ancora il Violante ha potuto accostare, con sottili graduazioni o slittamenti, istituzioni ecclesiastiche cittadine e chiesa cittadina come comunità ecclesiale e realtà spirituale. E su questo rapidissimo accenno mi augurerei accantonati del tutto, per quanto mi concerne in questa sede, non solo o non tanto la risorgente querela sul rapporto e la pretesa antinomia tra istituzione ecclesiastica e spiritualità, quanto lo stesso dibattito storiografico, a mio avviso pur tanto più significativo e fecondo, che in anni molto recenti e proprio in Italia si è acceso quanto all'essenza stessa dell'istituzione ecclesiastica. Precisamente il Violante era pervenuto nel 1971, in un contributo sulla cui importanza mi si consentirà di ritornare, alla scelta di considerare, quale primo momento di quella ardua sintesi complessiva che gli era stata richiesta nella sede del Congresso di Varsavia, su un tema che ha evidenti connessioni con quello che qui si dibatte, la cartografia e l'histoire socio-religieuse de l'Europe, le istituzioni, di considerare, dicevo, le istituzioni ecclesiastiche solo in senso proprio, appunto in un quadro socio-geografico, cioè entro lo spazio di vita e l'orizzonte mentale degli uomini che all'asse di quelle afferiscono, e di considerare separatamente le singole istituzioni, lungo tutto il filo della loro evoluzione, cioè con carattere settoriale, secondo spaccati verticali e per lunghe diacronie, e ciò a causa della riconosciuta scarsezza, frammentarietà e natura molto varia e occasionale della documentazione. Evidentemente, con riferimento all'arco cronologico da lui fissato, dalla metà del IV secolo alla metà del XIII, e al suo quadro territoriale grosso modo coincidente con lo spazio della tardo antica Italia annonaria. Un arco cronologico del tutto prossimo al nostro, il mio, che è stato scelto con le stesse giustificazioni del terminus ad quem là espresse dall'autore, il quale in convincente sintesi, ciò che mi esime dalla riprenderle qui, sottolineava il declinare di istituzioni e lo spegnersi di fermenti di vita religiosa e l'affermarsi di nuove esigenze spirituali e forme istituzionali, ancora la nota in diadi. È un quadro territoriale nel quale noi stessi ci muoveremo, seppure, in questo caso, sulla base di scelte che solo in parte coincidono con quelle del Violante, attinenti, le nostre, piuttosto a una sorta di filo rosso che mi sembra possa collegare le fonti utilizzate, seppure queste ci vengano da età e da culture diverse. Una tale impostazione metodologica sarebbe poi potuta apparire ulteriormente giustificata dalla constatazione che lo stesso Violante avrebbe fatto nel 1977 in sede di bilancio, proprio quanto alle istituzioni ecclesiastiche del primo venticinquennio di attività del centro di Spoleto, il riferimento va dunque rapportato all'alto medioevo, di come di fatto esse siano state troppo spesso trattate nelle 25 settimane spoletine in maniera dispersa e frammentaria e soprattutto come elemento del gioco politico-diplomatico per le funzioni prettamente politiche e sociali ed economiche che esse assunsero. E solo in parte, oserei aggiungere, vi sopperiscono i pur preziosissimi atti della Mendola. Solo in parte, almeno proprio per quanto riguarda le istituzioni ecclesiastiche proprie alla città, o comunque in quanto colte nella loro dimensione specificamente cittadina. E certo, solo in parte per la rigorosa definizione dell'area cronologica assunta, i secoli XI-XII, i quali pur rispondono a una cronotomia ben precisa, lasciandosi individuare come una fase di sufficiente coerenza. Non a caso Hagen Keller nel 1974 ne auspicava il superamento in tema di origine e formazione del clero cattedrale, cioè di un istituto ecclesiastico cittadino. Ma altri da questi sono i termini, e chiedo scusa di questo preambolo che in parte riflette le mie preoccupazioni metodologiche nel momento in cui io ho affrontato questo tema e dal quale sono stata onorata, della cui proposta sono stata onorata. Ma altri da questi sono i termini in cui deve porsi il problema dell'approccio all'ambito della vita religiosa. Si intende la vita religiosa cittadina. Perché in questa è la spiritualità a esprimersi, in quelle forme pubbliche, sistematiche e organizzate di cui si è detto. E, si presume, con caratteri di peculiare omogeneità, giacché nella città ci si muove all'interno di un assetto o processo istituzionale dato. Ora, nella storia della spiritualità, ammoniva Ovidio Capitani in un altro dei bilanci spoletini del 77, il procedere per blocchi diacronico etici può riuscire quantomeno infecondo, quando non addirittura deviante, se induca a indebite schematizzazioni. Non solo, ma non potrei non consentire con il Capitani nel ritenere che per la più larga parte quella spiritualità divenga storicamente comprensibile solo se la si assuma come mentalità, con tutte le tentazioni metodologiche, sociologizzanti o antropologizzanti che una simile traduzione comporta. Farò subito, finalmente, un riferimento concreto, assai rapido, perché è un aspetto sul quale ho avuto ripetutamente occasione di esprimermi in altra sede e credo che anche la collega De Matteis abbia avuto modo di parlarne abbastanza ampiamente ieri. Il riferimento è quello al culto del santo patrono cittadino, momento centrale della vita religiosa della città medievale, la quale, non mai meno e talvolta molto più che non la stessa chiesa episcopale, riconosce nel santo patrono il proprio segno. Ora, con il culto del santo patrono cittadino, cui non casualmente si diede il più largo spazio nel convegno tudertino del centro di studi sulla spiritualità medievale, dedicato alla coscienza civica nei comuni italiani del 200, siamo precisamente, per ormai ampio consentimento, nell'ambito, o almeno anche nell'ambito, di una problematica di storia della mentalità, fatti salvi naturalmente tutti i dovuti rinvii al relativo sistema di valori istituzionali anzitutto, e politici e sociali, cioè culturali in senso lato. Conserva allora, non dirò una legittimità, ma una attualità storiografica, un approccio ai problemi del Kirchlichesleben cittadino, che si dia nei termini del rapporto vescovo-città, caro a una ben consolidata tradizione storiografica, la quale senz'altro preliminarmente sconta, almeno per l'Italia, ma non solo per l'Italia, l'equazione civitas uguale città sede episcopale, che è del resto equazione sulla quale sembra di poter consentire, e per le variazioni relative al territorio considerato si vedano una volta di più le pagine del Violante. Scriveva Eugenio Dupré-Tesaider, a tacer d'altri, che proprio la presenza della sede vescovile è l'unico dato di fatto che possiamo addurre senza esitazione per qualificare la città medievale, oltre al connotato della cinta muraria. E a questo proposito citava il celebre passo in cui Gregorio di Tours, Historia Francorum 3:19, si stupisce che non sia detta civitas digione dalle belle mura, dove abitualmente risiedeva il soavo Gregorio, vescovo di Langres. Ma forse la spiegazione, e con ragione l'ha osservato il Febrier, è nel testo stesso. La sede episcopale era infatti duplice e in teoria, cioè in diritto, solo all'angolo. La risposta a quella domanda sembrerebbe non poter essere che negativa, se i termini vescovo-città si intendano come equivalenti a Bischofskirche, Stadtverfassung, Städtisches Verfassungsleben. Una impostazione che, come è ben noto, è stata largamente presente alla storiografia di lingua tedesca, a prescindere da quella che già la annuncia nel titolo, si pensa a tutta una importante saggistica sulla continuità della città tardo-antica, e che è stata anche di importanti lavori italiani, dalle pagine classiche del Mengozzi e del Mocchio Nori a quelle del Dupré-Tesaider, delle quali ultime non costituisce tuttavia l'unico motivo. Ma, ci ricorderebbe il Violante, con i poteri civili o comitali del vescovo, siamo fuori da una considerazione dell'istituzione episcopale in senso proprio. E però, se ci si rivolge a considerare concretamente le fonti per la storia delle istituzioni ecclesiastiche cittadine dell'Italia centro-settentrionale, o più propriamente le fonti per la storia dell'Italia centro-settentrionale secondo l'ottica delle istituzioni ecclesiastiche cittadine, ci si accorge di come, almeno per il Frumit e l'Alter, quel rapporto vescovo-città rappresenti la prima, se non la sola chiave di lettura per intendere la città nella sua dimensione ecclesiastica. E non per una questione meramente quantitativa. La sostanziale modestia dei dati emergenti per i secoli VI e IX, che nelle carte private come nei precetti regi e negli atti pubblici in genere, accantonerei per il momento altri tipi di fonte, si lasciano prevalentemente riconoscere per nomi di vescovi o di chierici, o titoli e ubicazioni di fondazioni ecclesiastiche o monastiche, che consentono di rispondere solo ad alcune tra le domande dell'amplissimo questionario ipotizzato dal Violante nel convegno romano per il novantennio dell'Istituto Storico Italiano per il Medioevo, e a quelle più strettamente pertinenti la geografia ecclesiastica o la Patrozinienforschung, certo tutt'altro che secondaria, per chi ripensi ai loca sanctorum bognettiani o ai cattedral patrozinien dello Edic, o di interesse specificamente prosopografico. Riconoscerei al contrario la ragione più importante in un ordine di considerazioni che avrà trovato largo spazio nella relazione della collega De Matteis. E cioè, per i secoli del Frumit e l'Alter si può ritenere che la città esprima se stessa, una coscienza di essere città, soprattutto nella rappresentazione del proprio rapporto di città, saxa e habitatores, con il vescovo, la cui presenza stabile concorre necessariamente a farla città. E perciò, elettivamente, in un particolare tipo di fonte, la biografia episcopale. Quanto si è detto vale certo in primo luogo per l'ambito della Francia merovingia, dove l'episcopato rischia di apparire come l'unica articolazione o struttura istituzionale riconoscibile per tale e non a caso da quell'ambito ci viene la più larga messe di testi e a quell'ambito si riferiscono le più stimolanti tra le sollecitazioni storiografiche recenti. Ma vale anche per l'Italia centro-settentrionale, seppure in misura minore, perché qui, nell'ottica della coscienza cittadina, è possibile una lettura articolata di fonti di tipo diverso, i cui riferimenti vengono accrescendosi con il passaggio al X secolo e l'incombere delle invasioni, mentre relativamente poche sono le vere e proprie agiografie episcopali. Ma queste conservano tutta la loro ricchezza di significati, sia in quanto vite singole, sia, e tanto più, quando si ordinano in quello che appare un genere caratterizzante il IX secolo, la serie diacronica di un libro pontificale. Per la nostra area ce n'è uno soltanto, quello Ravennate di Agnello. Perché un libro pontificale non è soltanto la storia di quella particolare chiesa. Nella continuità di questa è infine la continuità stessa della città a rendersi avvertibile. In un intervento del 1967 in tema di storiografia cittadina, Girolamo Arnaldi accennava a una tradizione storiografica che ha come punti di riferimento Agnello, Giovanni Diacono o il Liber Pontificalis Romano, e nella quale si esprime un'antica coscienza cittadina nutrita del senso della continuità della successione vescovile. Ma già il Duprete Zaider aveva anticipato pagine brillanti della storiografia francese dei nostri giorni, osservando che alla base della preminenza cittadina del vescovo non è solo l'ascendente che gli viene dal carisma sacramentale, ma pur quello che gli deriva dalla forza della tradizione. Nessuna famiglia comitale, soprattutto sono le parole del Dupré, soprattutto nei secoli anteriori al 1000, poteva vantare una sì illustre e lunga e ininterrotta serie di antenati quanto il vescovo annoverava predecessori nella cattedra. Suggestione elegantissima per il coniugarvisi di due diverse allusioni tematiche, che tali poi rimasero in realtà nel discorso del Dupré. Il richiamo al lignaggio episcopale, che necessariamente comporta problemi di legittimità e di progressivo assetto patrimoniale, e quello alla cattedra. Cattedra o sedes, cui Agnello da parte sua non cessa di fare riferimento, come al luogo insieme fisico e simbolico, con possibili implicazioni polemiche nei confronti di un'altra e più celebre cattedra, della presenza episcopale nella città. Si è tentati a questo proposito di dire che l'imageria agnelliana della sacralità episcopale è di tipo arcaico. In un testo che ha tante pagine di intonazione antiromana e cui sono ben note le possibili implicazioni delle tradizioni di apostolicità, non ho avvertito echi di un testo, di un celeberrimo testo evangelico, Matteo 16, 18, 19, che pur provvede uno dei contenuti nuovi alla sacralità episcopale nei testi carolingi del medesimo periodo, anche di quelli agiografici o di storiografia episcopale. Alle modalità dell'elezione del vescovo non è prestata da Agnello particolare attenzione. Genericamente si parla di omnes sacerdotes et populus ed è semmai significativo, quanto a quest'ultimo, l'insistenza agnelliana nel designare gli elettori laici come cives. Il diretto intervento imperiale nella designazione e nella consegna del pallio è previsto e talvolta auspicato nella linea delle strutture amministrative e politiche della città e dell'esarcato. L'attenzione di Agnello si appunta semmai sul momento successivo e vincolante della consacrazione, operata, come quasi sempre è, dal Papa, salvo che nel breve tempo del vigore dell'autocefalia, essa è segno della deprecata subiogazio ai Romani, tanto più che deve essere accompagnata, come nel caso degli altri vescovi suburbicari, dalla firma di tre impegni, le cui formule ci sono state conservate nel Liber Diurnus. Accanto al vescovo, ma talvolta di fronte e persino di contro a lui, si muove un clero sul cui atteggiamento di risentita autonomia già si era espresso Paolo Lamma, e sono tornati più di recente il Ghiù e il Capitani. Un'autonomia che ha ricevuto precise basi economiche in una convenzione, poi sempre di volta in volta richiamata, sancita da Papa Felice tra il 526 e il 530. Papa Felice, fattosi mediatore di una controversia sorta inter beatum ecclesium pontificem et sacerdotes de singulis rebus ecclesiae. I termini più generali ne passeranno nel secondo degli impegni riportati nel Liber Diurnus, la Cautio Episcopi, e che di quando in quando si accende di un'autonoma tensione ideale che almeno una volta, nell'episodio famoso del rifiuto di concelebrare con l'arcivescovo Sergio, appare esplicitamente nutrita di filogrecità. Dell'assetto di questa società clericale, i cui rapporti patrimoniali appaiono regolati puntigliosamente, il clero cittadino, inclusi con ogni verosimiglianza i chierici officianti chiese minori, divide con il vescovo i profitti derivanti dallo sfruttamento del patrimonio dell'episcopium, ma oltre che l'accordo più generale, cioè l'assegnazione gerasiana della quarta, sono previste singole fattispecie particolari, abbiamo in realtà di questo clero, dicevo, di questa società episcopale, abbiamo in realtà, di questa società clericale, abbiamo in realtà un'immagine molto parziale. Ci sono appunto chierici che officiano cappelle o chiese minori. C'è un archipresbiter e c'è un archidiaconos, ma delle loro funzioni tutto sommato ben poco sappiamo, non essendo applicabili a loro i dati che ci vengono da una legislazione di area franca. Sembra di poter supporre l'esistenza di gruppi presbiterali minori, ma occorre leggere tra le righe per ipotizzare una vita comune, in un senso eusebiano o agostiniano del termine, del presbiterium episcopale, del quale ad ogni modo non si coglie nessuna specifica tensione spirituale in tal senso. Ci sono poi, non fanno parte a rigor di termini della società clericale, ma entrano nella società ecclesiastica e religiosa ravennate, ci sono monaci che passano come meteore nelle pagine agnelliane e monasteri urbani ed extraurbani, per i quali, bene al di là delle pur meritevoli ricerche sul significato del termine stesso di monasterium e di una ricerca meramente archeologica, e da che lo stesso Guillou non sembra essersi spinto oltre i risultati acquisiti a suo tempo dal Dill, non parrebbe inutile, per quanto le fonti lo consentano, una ripresa sistematica dei problemi connessi. La consistenza, la proporzione tra monasteri greci e monasteri latini, anche ai fini di saggiarne le interazioni culturali, le consuetudini, in particolare per quanto attiene ai rapporti con il ceto clericale e con il vescovo stesso. Tanto più considerata la provenienza monastica di alcuni tra gli stessi presuri della serie agnelliana. Buon lettore dei testi agnelliani, lasciamo parlare Agnello, si compiace di ripetere, il Guillou si esprime a proposito del clero ravennate sempre nei termini di un clero deserviente la cattedrale. In questa identificazione, che deve infine ritenersi solo parzialmente esatta, se è vero che, come si è detto, non sembra dubbia l'esistenza di un clero officiante chiese minori, si tocca in realtà e in qualche modo si contamina la sostanza di due problemi. L'unicità a questo livello cronologico della funzione matrice della cattedrale, destinata a slabrarsi e poi a sgretolarsi in quello che diverrà il reticolo delle parrocchie urbane, e la capacità della cattedrale di costituire il centro di gravità e il polo direzionale di tutta la vita sociale, oltre che di quella religiosa della città e dell'evolversi stesso del tessuto urbano. Il Violante ha ben ragione di iscrivere nel noto lavoro la cattedrale accanto alle istituzioni ecclesiastiche cittadine. Sollecitato da una sua stessa precedente ricerca, la celebre tipologia dell'ubicazione e dedicazione delle cattedrali italiane, elaborata in collaborazione con il Fonseca, ne è stato condotto a una più lucida comprensione del rapporto che può essersi dato tra lo spostamento delle cattedrali all'interno dell'abitato urbano tra X e XI secolo, spostamento che si soleva spiegare con la scarsa sicurezza della zona suburbana, ma a questo si era già posto rimedio, nel caso, nel IX secolo, con l'incastellamento dell'edificio. Si vedano i diplomi di Berengario I che si riferiscono ai claustra in circuito di questa o quella ecclesia, e la riforma delle comunità canonicali. Ne ha trascurato di considerare lo stesso momento carolingio, naturalmente per l'area del Regno, quando, costituitevisi le comunità canonicali, secondo la regola di Aix, I canonici stessi assunsero la custodia della cattedrale, alle spese del vescovo che ne era prima il custos o rector. Ma la Ravennate Ursiana di Agnello, che appartiene ancora a un'altra area culturale, non appare toccata dalla novità. Essa, stabile nel suo sito, essa, per Agnello, come presso gli altri documenti ravennati, è la Santa Mater, la Santa Cattolica Ecclesia, riferimento e asse costante di vita religiosa, ma anche, direi, nucleo primitivo di organizzazione dello spazio sacro cittadino che verrà definendosi grazie alle successive iniziative edilizie episcopali. Chiedo scusa. Per quella nucleo primitivo di organizzazione dello spazio sacro cittadino, per quella che appariva esserne stata, nella consapevole rappresentazione agnelliana, la peculiare vicenda di origine. Cattedrale direttamente istituita nel cuore della città, quando questa perdeva la propria bipolarità originaria, il vescovo Orso, Piissimus Pastor, l'aveva fondata nel primo venticinquennio del IV secolo, ut plebes Christianorum, quae in singulis teguriis vagabat, in unum ovile colligeret. Se l'allusione allo spazio sacro è potuta suonare come un compiacimento sociologizzante orecchiato dalle pagine di Lewis Mumford, mi sia consentito d'altra parte esprimere il parere che la topografia religiosa costituisca oggi un settore di ricerca tra i più fecondi, come sembrano indicare risultati ottenuti per l'area transalpina e per l'età merovingia, di riconoscimento di quella che Jean Hubert definiva la ville sainte, con specifiche capacità, proprio in quanto ville sainte, di sopravvivenza e di aggregazione. Vorrei anche ricordare come già lo stesso Giampiero Bognetti, nel suggerire problemi di metodo e oggetti di studio nella storia della città italiana dell'Alto Medioevo, sottolineasse per le città dell'Italia settentrionale il conservarsi delle principali basiliche a livello originario, mentre tutto intorno la città cresce. Riprova di una ormai assai difficile e pur continua manutenzione, dice il Bognetti, ma anche, aggiungeremmo, indizio di un tenace rispetto per uno spazio ormai ad immemorabili tenuto per sacro e bene al di là, direi, della sua consacrazione formale. Si ferma a questo punto la prima delle esemplificazioni e si ferma anche, non ho assolutamente nessuna difficoltà a dirlo, a riconoscerlo, la stesura formale del mio discorso. La seconda esemplificazione, seconda ed ultima esemplificazione che io avevo scelto, si collocava all'altro estremo dell'arco cronologico del quale si è detto ed era rappresentata nella mia intenzione dalla Pavia dell'inizio del XIII secolo, ma con riferimento a un'epoca molto più arretrata, quale ci viene anche con riferimenti a un'epoca molto più arretrata, per tutta una serie di tradizioni che vi appaiono conglutinate, Pavia, quale ci viene rappresentata da Opicino De Canistris. Opicino De Canistris è, come penso che loro tutti sappiano, è chierico di nascita pavese e di curriculum avignonese nella prima metà del secolo XIV, scrive fiorente, come si diceva una volta, intorno al 1330. Del testo piciniano noi abbiamo oggi una specie di riconoscimento ufficiale, oggi intendo poi da una quarantina d'anni, una sorta di riconoscimento ufficiale, di epigrafia ufficiale ad opera del pavese Faustino Gianani, ancora il Maiocchi e il Quintavalle, che ne diedero l'edizione nel Rerum Italicarum Scriptores, la seconda edizione, la prima era stata quella muratoriana, parlano di un anonymus ticinensis. Ora, all'altro estremo dell'arco cronologico nel quale ho creduto di collocarmi, la Papia di Opicino De Canistris in qualche modo dispiega la propria dimensione religiosa e vorrei che la scelta dell'aggettivo non suonasse casuale, dimensione religiosa direi proprio in questo caso, piuttosto che ecclesiastica, entro lo spazio ben definito dei suoi tres murorum ambitus. Qui la tradizionale correlazione civica del vescovo con le mura è ormai assunta a livello di mentalità. Se, come osservava Donald Ballard, è bastato a Opicino una lettura troppo rapida di un diploma regale del secolo X per fargli senz'altro attribuire la costruzione della seconda cerchia di mura a un vescovo Giovanni che d'altra parte gli è del tutto incognito. Le domus o curtes o mansiones o celle dei vescovi della città del Regnum, delle città del Regnum, nella cui presenza Carl Richard Brühl individuava uno dei caratteri topografici distintivi della Hauptstadt medievale, onde la presenza in Pavia ne confermava il carattere di regia civitas, sono divenute le cappelle sorte temporibus langobardorum, quando illic omnes partium illarum episcopi congregabantur ad synodum. In realtà, nella rappresentazione opiciniana, tutta la città si configura come un unico, largo spazio sacro, scandito dalle più che 130 chiese e monasteri distribuiti entro le tre cerchie e dai corpi santi che esse custodiscono, e definito dagli antichi luoghi di culto cemeteriali longobardi che ora si trovano all'altezza del terzo muro, intra tercium et exterioris muri ambitum, delimitato anche dal più celebre monastero pavese, quello di San Pietro in Ciel d'Oro, sorta di estremo propugnacolo civico, perché se le spoglie del patrono protovescovo Siro riposano nella cattedrale, le spoglie di Sant'Agostino, secondo una tradizione mai smentita, portate da Liutprando a Pavia, riposano per l'appunto in San Pietro in Ciel d'Oro, e i pavesi, dice Opicino, preferirebbero perdere la propria vita piuttosto che non quel sacro deposito. Ora, qual è, al di là di questo, il quadro che esce? Dicevo, quadro essenzialmente religioso piuttosto che ecclesiastico, anche se dovrebbe far pensare il contrario quanto ho appena detto a proposito della descrizione opiciniana della città e della sua delimitazione nelle 130 chiese che ne costituiscono, in qualche modo, ne articolano il territorio. Ma questa articolazione religiosa come ci è altrimenti descritta? Opicino, al decimo capitolo del suo testo, dà una specie di resoconto, di resumé generale di quello che è lo status delle chiese e dei monasteri, degli istituti sacri pavesi. Intra urbem centum triginta tres ecclesias numeravi, exceptis alipibus capellis ecclesiarum contiguis, a corpore tamen ecclesie per medium parietem separatis. Non entrano dunque nel conto queste cappelle distinte dalle chiese e contigue però alle chiese stesse. In suburbis vero et in circuito civitatis, nel suburbio e nel circuito all'intorno alla città, ci sono 34 chiese e non le ho nominate sopra. Poi ci sono sempre all'interno e in circuito 16 ospitalia, 16 xenodochi, dei quali non sappiamo sono istituti ospitalia, dei quali però non sappiamo esattamente quale sia in questo momento la precisa destinazione. Ex quibus omnibus ecclesis, tam intus quam in circuito prope, sunt monasteria et priuratus monacorum ac domus religiosorum veloratoria moderno tempore, cioè oggi, soltanto e in tutto 27. 27 sono dunque le fondazioni monastiche, o comunque le domus religiosorum. Da queste, in senso stretto, perché da queste devono essere eccettuate le fondazioni degli umiliati, che sono 21. Aggiuntevi le monache, exceptis religiosis viris et mulieribus hospitalium conversis. Eccettuate anche, dunque, i conversi, eccettuate le persone recluse, i solitari, i coniugati penitenti e i contenenti e i continenti dei due terzi ordini, quelli dei predicatori e quello dei minori, che non abbiano propria oratoria. 15 sono le canoniche che sono entro le mura. Di queste ha specificato nella descrizione minuziosa data prima, due sono regolari, quella di San Pietro in Ciel d'Oro e un'altra dal titolo meno celebre. Reliquae vero sunt capelle, quasi omnes curam animarum abentes, sicut canonice. Quasi tutte hanno cura d'anime, et quedam monasteria praeter cathedralem ecclesiam, quae non habet aliam curam determinatam, la chiesa cattedrale non ha cura d'anime se non per il fatto che l'archipresbiter audit confessiones totius civitatis et diocesis, de quibus dam maioribus casibus et penitentiam iniungit, salva auctoritate diocesani. L'arciprete è deputato ad ascoltare le confessioni della città e della diocesi per i casi maggiori e a dare la penitenza, esclusa naturalmente, salva sempre l'autorità del diocesano. Ora, quali sono gli interrogativi che nella mancata elaborazione, che io non ho fatto, di questi testi emergono? Perché è questo, in fondo, che a mo' di discorso aperto, che spero di poter mandare avanti, vorrei chiedermi con voi. Prima di tutto, le dedicazioni delle chiese, cioè sono interrogativi di metodo, per quanto possibile, che io cercherò di porre. Prima di tutto le dedicazioni delle chiese. E dico subito che questa patrozina in Forschung a prima vista non lascia adito a considerazioni particolarmente significative. Io credo che la prima cosa che occorrerebbe fare, penso che la professoressa Pasori, che ha studiato questi temi anche, sarà d'accordo con me, sarebbe quella di fare un raffronto con il Liber Notitiae Sanctorum Mediolanum. Ma fatto questo, i nomi che ne risultano non appaiono, ripeto, particolarmente indicativi di una situazione culturale, soprattutto che abbia un riferimento a una situazione culturale precedente. Voglio dire che la Ecclesia dei Santi Gervasio e Protasio è una testimonianza preziosissima dei più remoti culti pavesi. E questa si conserva. Ma il trovare, per esempio, una Ecclesia Santi Marcelli non sembra portarci molto avanti, a meno che documenti privati o altro non possano illuminarci. Il secondo punto è quello della distribuzione delle case religiose. Io avevo cominciato, lo confesso, a tentarne una statistica. Quanti monasteri di un certo tipo, quanti di altri? Ripeto, il numero delle canoniche ce lo dà Opicino. Due, da lui non ricordate, sono, non ricordate nel resumé, sono canoniche regolari. Gli altri monasteri sono in prevalenza monasteri benedettini o piuttosto monasteri cluniacensi, secondo quello che fu il privilegio dato in ambito pavese. Per il resto le fondazioni monasteri maschili e femminili, le fondazioni monastiche, non monastiche, conventuali, mendicanti, sono relativamente poche. All'interno della città ci sono due case di predicatori, due case di minori, una casa di eremitani, nessuna casa di carmelitani. Casa di Carmelitani si trova invece nel suburbio. Né, d'altra parte, nel suburbio si osserva una presenza più rilevante di monasteri rispetto a quello che è l'interno della città. Pavia ha avuto una ricchezza di monasteri cittadini già in epoca ottoniana e la cosa è nota. Né in tempi successivi abbiamo l'impressione che ci sia stato una variazione sensibile. Pavia è luogo di fondazioni monastiche molteplici. Il problema fondamentale per chi si accosta alla conoscenza della struttura ecclesiastica della città medievale è, l'abbiamo accennato per Ravenna, la cattedrale. Ora, il problema della cattedrale pavese è un problema che al tempo di Opicino è largamente risolto. La cattedrale pavese è dall'undicesimo secolo nel cuore della città, apud Brolium Targum, cioè presso il palazzo del comune, e a questo proposito forse riuscirò a ritornare su questo punto tra un attimo con voi, dove però non sappiamo quando si sia insediata. Cioè il problema che resta tuttora aperto per quello che riguarda la cattedrale pavese è quello della sua ubicazione primitiva. Gli studiosi locali hanno creduto di poter indicare nella chiesa extramurania dei Santi Gervasi e Protasio, dalla dedicazione tipicamente collegata con i culti milanesi e con la quale noi siamo riportati alla fine del secolo IV, cioè alla metà, inizio della seconda metà del secolo IV, quando è possibile con buona verosimiglianza collocare gli inizi dell'episcopato pavese. Dicevo, gli studiosi locali, parlo soprattutto di Gaetano Panazza, non di Adriano Peroni, che non è allineato su questo punto, gli studiosi pavesi hanno ritenuto di poter indicare nei Santi Gervasi e Protasio la sede primitiva. Del resto non c'è in questo senso, notate che uso il termine sedes, che è sempre un termine più tecnico per quanto riguarda appunto l'imagerie della sacralità episcopale, l'abbiamo visto prima per Ravenna, meno tecnico per quanto riguarda la designazione della cattedrale. Ora, non c'è niente di strano che la prima sede si sia appunto installata presso la chiesa cemeteriale, nella chiesa cemeteriale, la chiesa del cimitero cristiano. Ripeto, è ipotesi che non trova però consenziente gli esponenti più autorevoli della archeologia di Pavia, archeologia medievale pavese. Quando sia avvenuto il trasferimento della cattedrale, posto che, come è presumibile che così fosse, sia stato in un primo momento in una sede extramuranea, quando sia avvenuta all'interno della città, questo noi non sappiamo. Noi sappiamo soltanto che alla metà, diciamo al primo quarto del VII secolo, ci sono in Pavia due gerarchie, quella ariana e quella cattolica. Ci sono due cattedrali, due basiliche, veramente, dice Paolo Diacono. C'è la cattedrale ariana, dove pontifica il vescovo ariano Anastasio, c'è la basilica cattolica, cui preest un vescovo cattolico. Della basilica ariana, della cattedrale, chiedo scusa, ariana, perché in questo caso si parla veramente di cattedrale, sappiamo la dedicazione, Sant'Eusebio. Un Sant'Eusebio che poi sparisce nel nulla, almeno se ha ragione Donald Ballach, che è l'autore che ha più da vicino studiato lo slittamento urbano della Pavia alto medievale. Nel X secolo la cattedrale esiste come tale in Pavia, al centro della città di Pavia, dove è tuttora, ed ha una titolazione che non ci stupisce, perché è il momento in cui ha impulso il culto del protovescovo Siro, quindi le fonti parlano dell'Episcopium Santi Siri, parlano della Domus Episcopi, della Basilica Santi Siri, dopodiché però noi sappiamo da tutta un'altra serie di fonti che il titolo della cattedrale è Santo Stefano. Santo Stefano e Santa Maria Maggiore, perché questo è il problema della cattedrale pavese. La cattedrale pavese è una cattedrale doppia, cioè è una cattedrale in cui Leggiamo Piccino, tutto sommato è l'unica cosa da fare. Ecclesia Santi Stefani Proto Martiris. Io chiedo scusa, posso leggere in latino o è bene che legga in... chiedo scusa, ma... Ecclesia, mi fa molto piacere. Ecclesia Santi Stefani Proto Martiris. In qua iacent corpora santorum confessorum et episcoporum Siri, primi predicatoris nostri, et Ioannis, eccetera, eccetera. Perché, dicevo prima di cominciare questo discorso a braccio, Pavia è munita dalle chiese, ma è munita anche dai corpi santi. Cioè, le chiese hanno importanza perché nelle chiese riposano i corpi santi. Ora qui noi non abbiamo, se non perché lo possiamo o lo vogliamo ipotizzare per analogia, io ho tentato di farlo prima, finendo così quel discorso un po' letto su una traccia manoscritta. Tavia ha un suo propugnaculum, che è il corpo di San Siro, che riposa nel monastero di San Pietro, del San Pietro in Ciel d'Oro, sì, che è appunto all'esterno della città, o perlomeno vicino al Tertium Murus, al Tertius Murus Urbis. Ma non ha, in senso proprio, una cinta di chiese che la cingano come appunto una cintura, una sacra cintura. Ora, io credo che la collega Bocchi, nel discorso, non lo so, ma è un discorso che so che ha fatto in altra sede, dovendo parlare dell'organizzazione del territorio, forse farà allusione al... No, non lo farà. E vabbè, allora lo farò io in questa sede. Forse farà allusione alla... o non farà allusione, lo facciamo noi, a quello che è il nome rimasto a una fascia suburbana intorno a Milano, cioè i corpi santi. Prego. Non sei convinta più che si tratti di una... dimmelo perché... Ora, al di là di questo esempio, che io conosco malissimo, come del resto tante altre cose, resta che la cintura dei corpi santi, cioè una ripartizione a mo' di cinta, voi presso le mura, voi in altra posizione, voi presso le porte, chiedo scusa, voi in altra posizione particolarmente individuabile, dico, resta una delle caratteristiche che noi incontriamo con relativa frequenza nel territorio cittadino alto medievale. Pavia non ha una cinta di santi, Pavia è tutta un munimentum di santi, perché le 130 chiese hanno tutte una serie di reliquie, di cui il nostro Piccino dà una lunghissima serie. Ecclesia Santi Stefani dunque. Ecclesia Sante Marie Maioris, contigua Ecclesia Santi Stefani, quae sunt pro Ecclesia Cattedrali. Le due chiese fanno dunque la chiesa cattedrale. In basilica enim estivali, quae est Santi Stefani in Aquilone, celebrant in estate canonici. In basilica vero iemali, Sante Marie in Meridie, celebrant in Iene. Ora, la doppia cattedrale pavese, come forse qualcuno o molti di loro sapranno, è stata studiata largamente, tra l'altro, dal Krautheimer. Ma quello che ci interessa è questa possibilità di ricondurre il modulo pavese, cioè il caso pavese, a un modulo di più ampia portata. La cattedrale doppia è infatti caratteristica che si incontra in tutta un'area che va dall'Africa settentrionale tardo antica alla Gallia di età merovingia, poi alla Francia vera e propria, senza trascurare alcuni esempi italiani che sono relativamente antichi. E allora io vorrei pormi un problema, che è questo: se ha ragione il Violante, io credo accogliendo una suggestione che gli viene dal Fonseca, perché Fonseca gli pose questo problema in una certa discussione, o pose ad altri questo problema, se cioè veramente c'è una connessione tra una certa opera di ricostruzione delle cattedrali e la riforma canonicale. Le cattedrali doppie, molto più antiche, a che punto del processo ideale, trovano posto? Ma è un problema che lascio, mi limito ad aprirlo. Dunque Pavia ha la sua cattedrale in Santo Stefano e Santa Maria Maggiore, cattedrale doppia della quale sono, l'abbiamo detto prima, custodi i canonici. Dopo la riforma e in pieno nell'XI-XII secolo, ma già in epoca carolingia, i canonici diventano i custodes, i rectores della cattedrale. Il vescovo cessa di essere custos o rector della cattedrale. E allora direi che acquista singolare interesse un documento che è stato anche di recente ripubblicato, che aveva pubblicato su tempo Romualdo da Santa Maria, cioè Flavio, Romualdo Ghisoni a Santa Maria, siamo al secolo XVII, cioè la carta delle consuetudini della Chiesa Pavese. Carta delle consuetudini della Chiesa Pavese che in realtà è la descrizione delle convenzioni patrimoniali e onorifiche tra il vescovo e il canonico. Il termine consuetudo non può stupire, lo usava a suo tempo già Agnello a proposito della consuetudo ecclesiae, cioè quella che era stata stipulata, essendone mediatore il vescovo Felice, tra Agnello e i suoi clienti. Se la cattedrale Santo Stefano, Santa Maria, rappresenta il centro della vita ecclesiastica cittadina, resta allora da chiedersi quale sia la partizione parrocchiale, perché a questo punto siamo agli inizi del XIV secolo, quindi c'è una partizione parrocchiale. Opicino ce ne parla, lasciandoci però intendere, e le notazioni che gli editori hanno dato, tutto sommato, ci mostrano come la documentazione ancora a questo livello cronologico non sia particolarmente ampia, la partizione parrocchiale pavese, le più antiche testimonianze sono del XII secolo, fine dell'XI, principio del XII secolo. Non significa però, per quello che io ho potuto vedere, che non si tratti di partizioni in realtà precedenti. L'epoca, direi che è l'epoca giusta per la partizione parrocchiale, però noi non sappiamo esattamente a quale punto precedente si riportino questi documenti. Ancora altri interrogativi che emergono, dicevo, distribuzione delle fondazioni religiose, distribuzione della cura d'anime presso le fondazioni religiose. Ce ne sono molte. Distribuzione delle esenzioni monastiche, elezione del vescovo. Ripeto, è solo una gamma di problemi che io, molto scusandomene, mi limito a accennare. Elezione del vescovo. Per l'elezione del vescovo la Chiesa Pavese sembra aver avuto delle tradizioni peculiari nelle quali si inserisce a un certo punto, che è il tempo stesso di Opicino, cioè nel primo quarto del secolo XIV, si inserisce un intervento di Giovanni XXII e viene avvocata alle forme consuete previste dal decreto Graziani la elezione del vescovo pavese. Quando Opicino scrive, è del tutto tramontata qualsiasi preoccupazione che riguardi il problema dell'esenzione della Chiesa pavese, cioè di quel peculiare rapporto diretto del vescovo pavese con il vescovo di Roma, da cui riceve direttamente la consacrazione, che si fa risalire a un'epoca che il Bognetti riconosceva, con una tesi che forse non è più possibile condividere ma che conserva il suo fascino, fa risalire al momento della pacificazione dello scisma tricapitolino, della composizione dello scisma tricapitolino, e quindi a una speciale funzione missionaria del vescovo pavese nei confronti delle popolazioni circostanti. Onde questa dignità di episcopus missionario, in qualche modo, che il vescovo ticinese avrebbe ricevuto con la consacrazione diretta da Roma. Personalmente, io sono del parere che questo sia avvenuto con un processo molto più lento, del resto il parere non è soltanto mio, è di una persona ben più autorevole di me, Giovanni Tabacco, che il processo sia stato molto più lento, che ci sia stata una prima consacrazione del Vescovo Pavese occasionalmente collegata con un fatto estemporaneo, cioè l'esilio del metropolita milanese da cui Pavia dipendeva a Genova in occasione dello scisma tricapitolino, e che questo possa avere costituito in qualche modo un primo momento. La preoccupazione costante di Opicino, ed è un problema che, sul quale io ho cercato di riflettere in questi ultimi tempi, ma ancora senza darmi una risposta precisa, una preoccupazione costante di Opicino sembra essere quella dei beni della Chiesa. Cioè, Opicino è molto preoccupato dello stato patrimoniale della Chiesa pavese. E, o perlomeno così appare, in una rappresentazione di quella che è la Chiesa del suo tempo. Ora io mi sono chiesta, e lascio la domanda a voi, se questa rappresentazione sia una rappresentazione che si riferisce a momenti specifici, precisi del tempo di Opicino, o se invece non ci siano ancora degli echi di situazioni precedenti. Mi spiego e con questo concludo. Uno dei successori di Siro sulla cattedra pavese è Lanfranco. Lanfranco è persona di notevole importanza, personalità di notevole importanza, pontifica alla fine del secolo XII, passato anche nella storia cultuale di Pavia come santo, benché, Opicino stesso ce lo dice, non canonizzato. Sepolto là dove volle vivere gli ultimi tempi della sua vita, cioè nell'unica fondazione vallombrosana. Questo mi riesce facile citarla perché è l'unico caso, nell'unica fondazione vallombrosana di cui si parli per Pavia, il monastero, appunto, fuori le mura, fuori il tercius murus urbis. Ora, Lanfranco, secondo la biografia che viene data di lui, e questo... Questo aspetto vi dà ragione, questo particolare vi dà ragione anche delle difficoltà con le quali io mi sono trovata a combattere in questa ricerca su Opicino. Faccio un passo indietro. Io credo a lettura conclusa di Opicino, a rilettura conclusa, perché in fondo il testo di Opicino è un testo che io credevo di conoscere bene, lo dico molto, molto francamente. A rilettura finita, io credo che non ci sia quasi una pagina di Opicino in cui non ci siano dei precisi riferimenti di tipo canonistico o comunque a certi tipi di normativa. Solo che il discorso corre in modo estremamente descrittivo narrativo. In realtà, io credo, e confido di poterlo fare, ogni proposizione opiciniana è nutrita di una certa tradizione. Lanfranco, in questa stratificazione di tradizioni, ha certamente avuto una sua funzione e una sua importanza. Perché alla fine del secolo XII, Lanfranco è colui che si mette in urto con le autorità del comune, che pretendono da lui, e magari gli danno anche qualcosa in cambio, pretendono da lui una domus che è di proprietà della Chiesa. Una domus presso il Brolium Parvum. E la risposta di Lanfranco è che non si dilapidano i beni della Chiesa. Ora, la risposta di Lanfranco ci viene da un testo agiografico che ha una singolare importanza. Io personalmente credo alla grande utilità della lettura, sempre della lettura dei testi agiografici. Ma questo è un testo che è stato composto dal successore di Lanfranco. E il successore di Lanfranco è un decretalista, è Bernardo Tapiense, il quale non può non avere pertanto in qualche modo configurato i rapporti di Lanfranco in quanto vescovo con il suo clero e la sua città secondo una certa linea problematica che gli veniva da una lunga tradizione giuridica. Questi sono i problemi che quanto alla alcuni dei problemi, chiedo scusa, non sono tutti certamente, ma certo direi i problemi emergenti da un testo come questa Laus Civitatis, perché in fondo il testo di Opicino non è altro se non un frutto estremo, frutto tardivo perlomeno, di una tradizione, di un genere letterario del quale noi ci valiamo sempre con grande facilità, solo che Opicino, il quale tra l'altro è chierico della curia avignonese e non può non riflettere in questa sua descriptio urbis anche la sua esperienza di chierico avignonese, solo che Opicino nel darci una descriptio urbis ci dà anche, a mio parere, un complesso quadro di quelle che sono non soltanto le dimensioni ecclesiastiche, ma le strutture giuridiche della chiesa cittadina del suo tempo. La signorina professoressa Orselli ci ha dato una lettura di due testi estremamente suggestivi come il Liber Pontificalis di Agnello e Opicino de Canistris. Due testi estremamente affascinanti che ogni qualvolta si prendono in mano ci si trova qualche cosa di nuovo. E la professoressa Orselli direi che ci ha saputo trovare molto e ce l'ha presentato proprio nella prospettiva di queste strutture ecclesiastiche. Allora intervengo subito io perché se mi concede posso? Certamente. Ecco, perché sono sicura di affrontare un tema che poi sarà, dopo sarà superato, quindi brevemente lo anticipo subito e poi dopo sarà lasciato da parte. Ed è relativo a un particolare, quindi non rientra nel discorso generale che la professoressa ha fatto, ma rientra così in un argomento puntuale che mi ha suggerito la presentazione che ha fatto dell'opera di relativa a Pavia, della Laudes Civitatis Ticinensis, e relativamente al numero straordinario di chiese, di monasteri, di canoniche, di tutte quelle cose che ci ha indicato. Ora io mi interessa naturalmente, qui io chiedo perdono del fatto di portare un così interessante argomento di storia ecclesiastica, di storia della religione, di storia della Chiesa, su un tema invece più di carattere urbanistico, come è la mia formazione, la mia limitata formazione, e volevo domandare se se ha potuto individuare nel reticolo urbano e suburbano di Pavia la collocazione dei monasteri che vengono citati. E volevo anche domandarle se per caso ha notato una diversa collocazione urbanistica dei monasteri femminili rispetto ai monasteri maschili. Mi pare, per altri studi che ho fatto in altre occasioni, che di aver notato come assai spesso il monastero maschile sia stato collocato, avendo bisogno di maggiori spazi urbani, sia stato collocato nelle zone suburbane o nelle zone in espansione urbana, mentre il monastero femminile, ci sono eccezioni naturalmente, ovvio, parlo in linea generale, ha invece trovato una collocazione più precisa all'interno delle città. E se eventualmente, qui credo che per Pavia sia abbastanza semplice e abbastanza noto soprattutto. soprattutto, perché si tratta del monastero di Teodota, il monastero del famoso monastero del Senatore, quindi tanto per citarne uno, che appunto hanno una particolare connotazione urbanistica in connessione al fatto che si tratta di monasteri urbani, di monasteri privati, di monasteri regi, di monasteri che adesso non voglio qui in questo momento dare fiato magari alle mie posizioni di femminista, non è questo, però insomma le donne avevano bisogno di essere protette in una qualche maniera, perché un monastero femminile fuori città non so proprio che cosa avrebbe potuto subire. Quindi mi domando se per Paria la professoressa ha notato questa situazione. Die Frage ist nach der Lage der Klöster in Pavia, ob man sagen kann, dass Frauenklöster aus Gründen erstens des geringeren Raumbedarfs und zweitens des größeren Schutzbedürfnisses innerhalb der Stadt, und zwar mitten in der Stadt, eher zu finden sind als Männerklöster, größeren Raum brauchen, weniger Schutz bedürfen und infolgedessen sich oft auch in den Sophorien, also Vorstädten, finden. Und dann noch die Frage, ob nach dem Charakter der Gründung, ob privates, privat gegründetes Kloster bis zum Königskloster oder Bischofskloster sich auch an der Situation etwas zeigt. Dico subito che questa è una, grazie professoressa della traduzione come sempre, e ringrazio la collega Docchi per questa domanda che ha posto. Dico subito che questa è, io non so rispondere, perché questa è esattamente uno dei rilevamenti che in qualche modo mi propongo di fare. Ho fatto ovviamente un primo rilevamento per l'esistente, al punto cui si ferma la carta ricostruita dal Balloch, cioè per un'epoca precedente. E lì evidentemente il problema si pone in termini diversi, perché per esempio mancano i conventi degli ordini mendicanti, ovviamente. E parecchie altre cose. Quindi in linea di massima resta ferma questa tradizione del monastero femminile all'interno della città. Il monastero maschile, Francesca intendevi, andiamo sul formale, la collega Bocchi intendeva chiedermi con riferimento ai monasteri o ai conventi? Perché anche in questo senso, come pensa, il problema non necessariamente ha la stessa risposta, cioè la stessa risposta può essere coincidente, ma per caso, non per le stesse motivazioni. No, ma io intendevo in generale fenomeni di vita comunitaria, se fossero conventi, se fossero monasteri, sì. Questo era Resta, direi, in genere un dato di fatto. Ecco. Però qui si tratterà di vedere che cosa è possibile ricostruire e, dico, bisognerebbe a questo punto avere lo strumento che io mi auguravo prima, anche con la professoressa Fasoli, mi sarei augurata di aver potuto consultare durante il mese di agosto, che è l'edizione di Officino De Canistris, corredato dalle tabule. È vero che delle tabule ha dato un'edizione anche Salomon, ma è anche vero che la migliore edizione è quella di Giamani e dico, bisognerà andare a vedere lì. Secondo le ricerche di Peroni, che io sappia, la carta però di Opicino, la carta, la mappa di Opicino non è perfettamente esatta con i rilevamenti archeologici attuali. Questo è quello che io in linea di massima posso dire. Cioè è comunque un lavoro da fare. Dico, sono state fatte ricerche per monasteri singoli, collega Bocchi ha citato il monastero di Teodota, per quello si sa tutto. Tra l'altro basta prendere Peroni, gli studi medievali e si sa tutto. Ma al di là di quello, io francamente non saprei nulla. Prego. Altre domande? Eine klare Antwort ist noch nicht gegeben. Die Karte des Officinus von Canistris, die nach archäologischen Untersuchungen nicht genau ist, ist also Frau Rosselli nicht zur Verfügung gewesen. Und im Übrigen hat sie bestätigt, dass also auch im Klavier Frauenklöster innerhalb der Stadt liegen während also sie für die Männerklöster Differenzen machen würde zwischen Konventen und eigentlichen Klöstern, sie aber Archäologie und Forschung führen noch nicht weit genug und die Forschung noch Ballon hören viel zu früh vor Opitinos auf und auf den Befund des Opitinos Schiller angewandt werden zu können. Si rivolga al professor Elze, per favore, perché il mio tedesco è pessimo. Und zwar macht man also in, bei deutschen Städten im Spätmittelalter die Beobachtung, dass sich in der Nähe der Klöster der Bettelorden die Beginen und Begaden aufhalten und in enger räumlicher Beziehung stehen. Gibt es eine solche Beobachtung auch für Italien, also für italienische Städte? Nelle città tedesche, tardo medievali, accanto ai conventi dei mendicanti si trovano le beghine e i begardi. E la signora vorrebbe sapere se per l'Italia si può dire altrettanto. Ci sono movimenti religiosi che vanno più o meno nella stessa direzione, che talvolta si trovano, ma io non ho fatto nessuna ricerca oltre Pavia, nessuna lettura per questo oltre Pavia, che talvolta si trovano in area non lontana. Quando riuscirò a rispondere alla domanda della collega Bocchi sulla ripartizione delle case religiose, allora per esempio vedrò di che cosa si tratta esattamente, sempre che sia possibile sulla base della mappa di Opicino, che cosa è possibile dire per esempio, per, mi si perdoni la commistione, che è solo una commistione, per le case degli umiliati e delle umiliate, che però sono il fenomeno, diciamo, che nel testo piciniano, io in questo momento penso al testo piciniano, sono l'unico fenomeno che io mi sentirei di accostare, in una linea grundmanniana, diciamo, mi sentirei di accostare a quello. D'altra parte, ci sono menzioni che noi abbiamo visto insieme, che loro hanno avuto la gentilezza di ascoltare, di case di reclusi, di penitenti, cioè di movimenti laicali, religiosi laicali, che noi non concretiamo sul testo opiciniano, e si tratta di vedere però sempre sulla almeno sulla mappa opiciniana. Ecco, questo per Pavia. Ci sono quindi in sostanza delle case, degli insediamenti di gruppi e movimenti laicali in qualche modo inseribili in un certo filone, quanto alla collocazione al sito urbanisticamente parlando non sarei in grado di dare una risposta. Beginn gibt es in Pavia nicht. Gibt's auch. Für Pavia hat Frau Rosselli zu antworten und geantwortet. Sie sagt, dass die Niederlassung der Humiliaten und der Humiliatinnen vielleicht in Analogie zu den Beginn und Begaben gesehen werden könnten, dass außerdem einzelne Häuser von Reklusen sich finden, die aber auch noch nicht lokalisiert sind, dass man unter Umständen auch da, wo Füßer oder Penitenti zusammenleben, wo es sich also auch um religiöse Laien handelt, an Vergleichbares denken kann. Aber genaues, so genaues, wie Sie es wünschen, ist auch in Bezug auf Pavia. Posso dire una cosa? Siccome rientra in questo discorso, brevissima, solamente c'è stato questo riferimento al Beguinage e agli umiliati. Io credo che siano due fenomeni molto diversi, sì, sì. Perché il fenomeno degli umiliati e le case degli umiliati sono una caratteristica del tutto differente, dal momento che si trattava, almeno per quello che ho potuto vedere io, di persone che continuavano, continuavano a fare la professione, in genere erano addetti alle manifatture tessile, e nelle loro case, quindi si tratta di insediamenti che sono collocati prevalentemente presso delle prese d'acqua, perché avevano, e Vabrera per esempio, abbiamo di queste notizie, e quindi direi che forse si tratta di fenomeni che io penso siano di carattere differente. Frau Boffi sagt, dass also die Humiliatus im Wesentlichen Laien sind, die ihrem Beruf weiter nachgehen. Das ist in diesem Fall im Wesentlichen Textilproduktion. Für die Textilproduktion braucht man Wasser. Und insoweit ist also eher zu sagen, die Humiliatus finden sich, wo Wasser ist, als sie finden sich bei irgendeiner, in der Nähe irgendeines Klosters oder dergleichen. Sie möchte aber ausdrücklich sagen, dass die Humiliatinnen doch wohl etwas sehr anderes sein als die Beginen und Beginnen, und deshalb also mit Beginen Höfen, die Humiliaten wieder besser nicht zu vergleichen sein. Se posso? Ho premesso che il mio riferimento era assolutamente analogico e non di identità in alcun modo. Inoltre, non sempre o soltanto per quanto io sappia, gli umiliati continuano la loro vita dandosi a questa, che certo è la loro attività prevalente, questo non c'è dubbio. Ma abbiamo anche, che io sappia, delle forme di umiliati, non so quanto diffuse, ed è difficile dirlo sul testo ficiniano, abbiamo anche delle forme di umiliati che in qualche modo rientrano in una vita più prossima, non dirò una vita monastica, ma a un movimento religioso di tipo ancora più assimilabile a quello di cui si dice. Frau Rosselli weist nochmal darauf hin, dass sie nicht Humiliaten und Beginen in eins setzen wollte, sondern dass sie nur von Analogie sprechen wollte. Und das ist aber außerdem nach ihrer Kenntnis, wie ich das Tabia, Humiliaten kennen, die doch also dem gemeinsamen Leben von klösterlichen Gemeinschaften näher kommen, als diejenigen, die ihren Beruf in ihren eigenen Häusern weitermachen. Va bene, c'era uno e un'altra mano si era alzata. Va bene, ad ogni modo parli bene. Ich wollte noch einmal auf einen Punkt zurückkommen, den wir gestern in dem Referat bereits mehrfach angesprochen haben, nämlich das von Ihnen auch vorgehobene Faktum, dass sich ein städtisches Bewusstsein und auch ein religiöses Leben immer am Stadtheiligen konkretisiert. Worüber wir noch nicht gesprochen haben, was mich aber interessieren würde, ist, wo die Motive dafür liegen. Kann man hier etwa ein Fortleben des antiken Genius Loci finden, oder gibt es da Äußerungen, Theorien, wie nun diese spezielle Erscheinung Italiens, denn das ist sehr wohl zu erklären, ist im Gegensatz zu Deutschland. Ieri abbiamo già parlato della discussione del santo patrono della città, però ieri questa discussione è stata interrotta per essere continuata oggi, e il signore desidera sapere una cosa speciale, cioè qual è la motivazione per il fatto che il culto del santo stia alla base della coscienza comune cittadina. E si tratta, lui propone una soluzione, della continuità del genius loci antico, o ci sono altre motivazioni per l'importanza del culto del santo patrono, che è una specifica cosa italiana e che nelle città tedesche non si trova in questo modo. Ancora una volta mi è difficile dare una risposta, anche se del santo patrono forse dovrei sapere appena un pochino di più. Non esiste, a mio parere, una risposta unica. Ma per ogni caso, direi, occorre in qualche modo trovare le motivazioni adatte. Le motivazioni non vanno cercate, per rispondere alla sua domanda, perché penso che stia comprendendo, vedo, cercherò di parlare lentamente, le motivazioni non vanno cercate, secondo me, nell'età comunale. Certo vanno cercate prima, ma non, io credo, Badi, le do la risposta nella quale credo io, non nel Dominus Loci, ecco, questo nel Genius Loci, chiedo scusa, non tanto nel genius loci, anche se certamente accanto a elementi di carattere squisitamente giuridico, io penso a quel rapporto particolare che è il patrocinium nella struttura giuridica romana, patrocinium che io credo personalmente si trasferisca quantomeno come idea di un tipo di rapporto e certo come terminologia carica di certi valori. Però il rapporto giuridico forse non basta, cioè accanto a questo vanno certamente considerate, ma a livello tardo antico già, vanno certamente considerate delle motivazioni di carattere religioso. Più che al genius loci, io penso, sempre basandomi sull'uso di certo vocabolario emergente nel patrocinio, io penso piuttosto al vocabolario della tutela, la tutela religiosa. Ecco, questo credo che sia un fattore che ha avuto molta importanza. Quando poi si arriva, alla coscienza civica nei comuni italiani del 200, forse ieri è stato fatto un riferimento, anch'io l'ho fatto oggi come lei ha sentito, il fenomeno a questo punto è già un fatto di mentalità. Quella equazione che io ho cercato di ricordare, non certo di stabilire io oggi, perché non sono certo stata io a stabilirla, però quella equazione che io ho cercato di sottolineare, spiritualità comprensibile se la traduciamo con mentalità, vale tanto di più, è proprio per questo caso. Nei comuni italiani del 200 il patrocinio del santo, cioè il riconoscimento da parte della comunità civica, prima che questa sia comune e tanto più comune italiano del 200, il riconoscimento comunque da parte della comunità civica della propria identità in qualche modo in un segno rappresentato dal santo è già un fatto di mentalità. Quello che è, non so se sia stato detto ieri, me ne scuso se lo ripeto, se no rispondo credo meglio alla domanda del collega qui presente. Quello che è significativo per i comuni italiani del 200 è l'eventuale scatto di un cambiamento della santo patrono. Questo lo aveva già capito Paier, autore di un saggio che forse lei conosce, quando parla di Wechsel des Stadtpatron. Però si realizza veramente, lo si verifica sulle fonti e corrisponde a un mutamento, essendo un fatto di mentalità, corrisponde a uno slittamento nel sistema di valori corrispondente, quindi nel sistema di valori istituzionali in primo luogo corrispondente. Ecco allora che un caso, il caso di Bologna, noi veniamo in parte da Bologna e a quello ci rifacciamo. Il caso di Bologna. Bologna ha come patrono San Pietro, sino a un certo momento. San Pietro è il segno della città, ma è anche il segno della Chiesa Episcopale. Ecco questo, già che siamo venuti a parlare di questo, e del resto io ne ho fatto cenno proprio anche oggi. Questo mi sembra da sottolineare. Il santo patrono nel primo momento, e per primo momento intendo il primo momento del suo culto nella città italiana, e penso soprattutto all'area delle città italiane dell'Italia centro-settentrionale, l'area a cui ci siamo riferiti oggi. Nel primo momento, cioè quello tardo antico, è il segno della città. Veramente, la città lo riconosce come tale, perché normalmente adotta come suo patrono un vescovo. Ora, il rapporto vescovo-città, e torniamo al discorso che abbiamo fatto prima, è veramente un rapporto pregnante. Quando il culto si è instaurato, il culto è anche il culto della Chiesa Episcopale, proprio perché il vescovo presente in quel momento sulla sedes, sulla cattedra, si riconosce nel lignaggio episcopale che discende da quel santo che in genere è il protovescovo. Oppure, se non è il protovescovo, è un santo, in genere però con qualità episcopali, di particolare significato, il caso di San Pietro. quale santo più vescovo di San Pietro, in qualche modo, radice dell'episcopato, secondo la dottrina vitae. Bene, a un certo punto l'emergenza di un altro sistema istituzionale, di un altro sistema di valori istituzionali, culturali nel senso più lato, proprio alla tedesca, nella cultura nel senso tedesco, comporta una scelta di un nuovo segno che differenzi la nuova cultura civica dall'antica. Ed ecco allora che la Chiesa di Bologna, che sino a quel momento si è riconosciuta in San Pietro, continua a riconoscersi in San Pietro, ma il comune a un certo punto, che personalmente mi sono una volta azzardata a individuare nell'ultimo venticinquennio del XIII secolo, cioè il momento in cui c'è la pace del cardinale Latino, c'è una certa opposizione a questa nuova politica, la Bologna è stata restituita alla Chiesa romana ad Beatum Petrum Celestis Regni Clavigerum, quindi con un'allusione molto specifica. In questo momento la città, cioè il comune in cui la città si riconosce per larga parte, si sceglie un altro segno e se lo cerca nel suo lignaggio episcopale, che è autonomo rispetto a quello della Chiesa romana, di cui Pietro è il capostipite, e si sceglie un vescovo di cui non si sapeva niente, ma che pare effettivamente esistito. Poverino, personaggio, dice la professoressa Fasoli, la cosa, confesso, che mi lascia indifferente, cioè non ha rilevanza per questi problemi di storia della mentalità, ed è San Petronio. Non vorrei rubare altro tempo. Grazie. Prego, lei ha compreso forse abbastanza? Sì. Auf die Frage, wie es zu der Bedeutung des Stadtpatrons für die italienischen Städte kommt, antwortet Frau Borselli, es sei nicht so sehr daran zu denken, dass es ein Fortleben oder Übernahme des antiken Gentius Loci sei. Schon in der Spätantike sei das Patrozinium sehr stark juristischen Charakters gewesen und noch wichtiger sei eigentlich der Charakter des Stadtpatrons als des Schutzheiligen für die Stadt. Das städtische Bewusstsein, durch diesen Heiligen geschützt zu sein, ist älter als die Kommune. Der Heilige ist das Symbol der Stadt. Ein solches Symbol braucht man, um sich sozusagen der Gemeinsamkeit bewusst zu sein oder das gemeinsame Bewusstsein ausdrücken zu können. Dieser Stadtpatron ist in der Regel ein Bischof, gelegentlich, wie im Fall von Bologna, der heilige Petrus, sogar ein Apostel, also mehr als ein Bischof. Und es kann nun dazu kommen, es ist uns hier am Fall von Bologna geschildert worden, dass zwischen der Stadt und dem Kommune, der eigentlichen, also bürgerlichen Organisation der Stadt, ein Wandel in den Schwerpunkten eintritt. Der Kardinal Latinus hat im letzten Drittel des 13. Jahrhunderts Bologna dem Kirchenstaat wieder einverleibt. Und damit ist der heilige Petrus zum Petrus von Rom geworden, zum Zeichen der Unterwerfung Bolognas unter den Kirchenstaat. In diesem Augenblick hat Bologna, das Kommune von Bologna, einen anderen Bischof, der als solcher ziemlich unbekannt ist, nämlich Petronius, zum Stadtheiligen gemacht. Und so ist der Wechsel des Stadtpatrons Ausdruck auch eines Wechsels innerhalb der Machtverhältnisse der Stadt, bleibt aber das Symbol, der Stadtpatron bleibt also das Symbol dieses städtischen Bewusstseins. So etwa in wenigen Worten und sehr verbeugert die Antwort von Frau Massetti. Professor Roger? Prima cosa, se rifletto alle origini di questa polarizzazione intorno alla Chiesa, alle scoville e intorno al Santo Patrono, ecco, da un lato mi consento molto, se ho ben capito, nel fatto che sembra essere crollato quello che ancora qualche anno fa sembrava un dogma, cioè che nelle città dell'Alta Italia la cattedrale primitiva dovesse essere di regola fuori della cinta murata della città e insomma, se possono confermarmi che è così, mi sento più sicuro. sicuro per tanti versi, sembra crollata questa idea, che appunto non trovo dimostrata da nessuna parte, anzi trovo piuttosto dimostrata in senso contrario. Rispetto al titolare di queste cattedrali, sia primitive che nell'alto medioevo, credo convenga anche tenere presente che per sé la chiesa di cura d'anime, la ecclesia normale, dove la chiesa locale si raduna per la celebrazione dei santi misteri la domenica, non ha bisogno affatto di avere un titolare. Non ce l'aveva Roma, al Laterano, dove il titolare è Salvatore, non esatto, no? E sono convinto che molte chiese non ce l'avevano, era la chiesa, vescovile, eccetera, il punto di convento. E perciò, per prima cosa, non, guardando alle origini, il problema di trovare a tutti i costi un titolare lì è forse posto male. Titolare, personaggio titolare, è nato attraverso il corpo, con riferimento alla chiesa cimiteriale, no? Legato al luogo del santo nel posto dove era sepolto, e qui molte delle nostre città hanno appunto la chiesa fuori dalla cinta antica con il sepolcro del martire, intorno a cui è sorta poi la basilica, no? E questo santo, possa in un secondo momento essere diventato semplicemente il patrono della diocesi, o il patrono che coincida molte volte, ma non sempre, dove non c'era un santo, in altre Italia abbiamo un caso abbastanza frequente che hanno reliquie che provengono da Aquileia, Vicenza, e così, insomma, no? Ma allora è una reliquia depositata molte volte anch'essa in una chiesa cimiteriale extraurbana. Si connette con questa faccenda il problema della titolarità mariana di molte chiese, non so fino a che punto, forse se qualcuno può aggiornarmi, fino a che punto sia arrivato il cosiddetti titoli mariani, perché indubbiamente sono più tardivi e resta il sospetto o la congettura che quelle molte chiese matrici di cura d'anime che non avevano un titolare in un secondo tempo, quando era d'obbligo avere un titolare, insomma, che parecchie di queste abbiano preso la titolatura mariana, no? Piuttosto che arriva a proposito di queste chiese matrici, di queste chiese antiche. Ma chiederei un confronto, ecco, una conferma o una smentita. Sono state molto interessanti le osservazioni relative a Pavia, per esempio, in questo riguardo, no? Ma distinguerei molto forte tra la chiesa, nelle origini, la chiesa vescovile, il punto di convegno normale per la cura d'anime, dalla chiesa cimiteriale, dove il punto di convergenza sono le ossa del santo, con tutta la loro carica di sacralità che è messa alle reliquie e che è notissima, pensiamo a Bisanzio, che ancora insomma, l'assedio contro i turchi porta le reliquie dei martiri sulle mura, no? Per avere un valore. L'altra questione riguarda la partizione parrocchiale in queste chiese, che anche dopo la combinazione di piedi rurali nel territorio sono rimaste anche centro di cura d'anime e solitamente per un ambito abbastanza ampio, qui tutta la Valle Trentina, da Castelveseno fino a Mezzolombardo appartiene a Trento e ha la sua chiesa battesimale a Trento. Ma a Trento sorgono due o tre centri di cura d'anime, tra cui la vecchia chiesa che una volta era la cattedrale originaria e dopo viene abbandonata come tale. Il parroco di tutte queste chiese appare in capitolo cattedrale in epoca più vicina, no? Che mette dei vicari, dunque sono stazioni di cura d'anime più che parrocchie nel senso delle combinazioni delle parrocchie rurali con i loro confini rigorosi. Il parroco è uno, il collegiale, è già subentrato se vogliamo al vescovo, e insomma mette dei vicari in queste varie chiese. È una partizione molto, molto relativa a questa del territorio, ma qui si tratta di una città piccola e non so fino a che punto, chiederei fino a che punto questo esempio può essere istruttivo per altri casi, oppure se valga solo in una città che poteva ridursi ad un'unica parrocchia anche volendo. Ja, Herr Monsignor Roger weist darauf hin, dass in den Anfängen die einzige Kirche, die ein Bistum war, nämlich die Kirche des Bischofs, eigentlich keinen Titel Heiligen brauchte. Und dass beispielsweise die Kirche des Bischofs von Rom, die Lateranbasilika, keinen Titel Heiligen hatte, denn Christus, es war eine Salvatorbasilika, der Heiland ist kein Heiland. Die Verbindung zwischen dem Titel Heiligen der Kirche und der Kirche sei vor allen Dingen dadurch zustande gekommen, dass Kirchen und der altchristliche Basiliken, auch viele von den früheren Domen der Städte, auf Friedhöfen, das heißt über dem Märtyrergrab errichtet worden sind. Dadurch hat sich also die Verbindung von Heiligen und Kirche notwendig hergestellt. Und sie ist dann später auch gelegentlich künstlich hergestellt worden, durch Übertragung von Reliquien in die Kirche. Die Reliquien dieses Heiligen sind dann eben die Reliquien des Titularheiligen, des Patrons dieser Kirche. Er fragt noch, wie es denn sei mit den Marienpatrozinien. Auch Maria ist in diesem Sinn keine richtige Heilige, sondern mehr als das. Er meint aber, dass die Marienpatrozinien der Kathedralkirchen wohl meistens jüngere Platons sind. Dann zweiter Hinweis, vielleicht eine Frage, geht auf die Einteilung des Bistums und auch der Bischofsstadt in Pfarreien. Ausgehend von der Tatsache, dass ursprünglich die Seelsorge allein dem Bischof, der sozusagen der einzige Pfarrer in seiner Diözese ist, untersteht und dass dann der Bischof unter Umständen das Domkapitel mit beauftragt, sodass das Domkapitel Besitzer der Pfarrrechte ist, und in Pfarrgemeinden, zum Teil auch weit hier in Trient außerhalb der Stadt, die Seelsorger einsetzt, Kuraten oder Vikare, die Frage also, ob und inwieweit die Selbstständigkeit von Pfarrern, vom Bischof und Domkapitel etwas für große Städte Bezeichnendes sei, während bei kleinen Städten wie Trient möglicherweise die unmittelbare Wirksamkeit von Bischof und Domkapitel bis in die niedrige Seelsorge hinein stärker geblieben ist. Meine Frage war hauptsächlich, vielleicht habe ich mich nicht für Ihre Schuld ausgedrückt, war hauptsächlich auf die Stadtseelsorge. Also auf die Teilung der Seelsorge innerhalb der Stadt, nicht so sehr auf die Landpfarreien. Ringrazio il professor Elze e Monsignor Roger. Comincio subito dall'ultima parte, che è quella che mi trova con minime competenze, perché io arrivo, dico apertamente, a un certo punto. Per quanto riguarda le circoscrizioni, le divisioni parrocchiali, io credo che per quanto riguarda, per quello che ho potuto vedere, non ho competenza di ricerche specifiche sulle fonti se non per Bologna. Quindi lo dico subito, fonti d'archivio, voglio dire. Per quello che ho potuto vedere nella letteratura critica, se c'è un argomento che forse ancora deve essere approfondito, è quello della ripartizione delle parrocchie urbane. Perché le parrocchie rurali sono state fatte larghissimamente oggetto di studio e continuano ad esserlo. Le parrocchie urbane normalmente ce la caliamo dicendo che in fondo si tratta di un istituto relativamente tardivo e che quindi ne sappiamo poco, tutto sommato, e non ci sono regole fisse. Non sono quindi assolutamente in grado di rispondere alla sua cortese domanda se cioè l'esempio di Trento sia un esempio isolato o se invece si inserisca in una serie più o meno omologa. Non oserei neanche esprimere un'impressione perché non voglio andare nelle cose che non so. Tornando indietro, il problema della titolarità della cattedrale mi trova completamente, anzi dell'ubicazione e della titolarità. Mi trova perfettamente concorde, per quello che riguarda l'ubicazione direi che non esiste una regola, come prima si diceva, cioè dico, in fondo se c'è un vantaggio visibile della tipologia di Violante Fonseca, vantaggi ce ne sono tanti, è proprio in questa estrema varietà, alla fine esce un quadro che è fatto di punti, ecco. E tanti, credo che su tante affermazioni lì fatte gli stessi autori oggi probabilmente ritornerebbero. Quindi non c'è una regola, non necessariamente fuori, talvolta sì. Nel caso di Pavia non sappiamo, nel caso di Ravenna sì, nel caso di Ravenna siamo sicuri. Cioè, la cattedrale ravennate è nata nel cuore della città, la Basilica Ursiana. E chiamando la Basilica Ursiana o Santa Resurrezione ho risposto anche alla sua seconda parte, alla seconda parte della sua domanda. La chiesa cattedrale normalmente, sempre normalmente, cioè diciamo quasi sempre, ecco, non di regola, non ha titolarità di questo o di quel santo, ma in genere, se ha un titolo ufficiale normalmente, ce l'ha il titolo che concerne la persona, una delle persone della Trinità, o comunque un evento fondante della vita del Salvatore. Quindi è dedicata a Dio, semplicemente. Poi seguirà il problema delle dedicazioni mariane, eccetera. La titolarità del santo, certo, è legata normalmente a una chiesa dove sono le reliquie, e perciò a una chiesa cemiteriale, quindi una chiesa suburbana. Il problema, che per Ravenna non si è mai posto in questi termini, si pone quando, come nel caso di Pavia, avviene un trasferimento. Certamente un trasferimento di cattedrale, perché nonostante non sappiamo quando si sia trasferita, un trasferimento è lecito pensare che ci sia stato. La cattedrale di Pavia nel X secolo ha una titolazione precisa, che è Santo Stefano. E poi, con i rifacimenti che vengono fatti in epoca di riforma canonicale, diventa Santo Stefano e Santa Maria. La chiesa di Santa Maria è fondata al tempo di Liutprando, quindi sappiamo benissimo quando è stata fondata, è stata dedicata da un certo Anso, e quindi siamo nel secolo VIII, nella prima metà del secolo VIII. La chiesa di Santo Stefano è più antica, forse, dice Balla, se ha ragione, del VI, ma certo al massimo del VII. Nasce con un titolo. E verrebbe da chiedersi se nasca come chiesa cattedrale. Sì, probabilmente nasce come chiesa cattedrale. Quando vengono portate da dove erano, e sappiamo dove erano, cioè nella chiesa suburbana dei Santi cemeteriale dei Santi Gervasi e Protasio, le reliquie di San Siro, protovescovo, in un momento in cui il culto del protovescovo assume uno speciale rilievo perché è il capostipite della sua chiesa, perché siamo in un momento di ripensamento istituzionale, siamo in età carolingia, quindi siamo all'epoca tra la fine dell'impero di Carlo Magno, secondo la mia ipotesi, e i primissimi anni dell'impero di Ludovico il Pio. Quando viene fatta questa ricognizione di questo culto e di San Siro, che fu vescovo nel IV secolo, si inventa che fu discepolo di Ermagora, il quale era discepolo di Marco, che era stato discepolo di Pietro, per dargli la discendenza apostolica, allora le reliquie vengono portate dentro. E da quel momento la chiesa di Pavia acquista, accanto a una titolazione ufficiale, che continua a essere quella di Santo Stefano e Santa Maria, che è quella che compare negli atti ufficiali, le costituzioni della chiesa pavese, gli atti sinodali, tanto per intenderci anche, acquista una titolazione consuetudinaria, che è quella di San Siro. I pavesi si intendono. Uno dice, ecco, San Siro è però è la chiesa di Santo Stefano, chiesa cattedrale, dove è sepolto San Siro. Eifrig erforscht werden, dass hingegen die Frage der Pfarreinteilung der Städte als verhältnismäßig spät und deshalb verhältnismäßig uninteressant bisher wenig erforscht ist und infolgedessen sie darüber keine genauen Auskünfte geben kann, ergo auch keine Auskunft, ob der von Monsignor Roger angegebene Fall Trient typisch oder nicht typisch, also speziell trientinisch ist. Das war die erste Antwort auf die zweite Frage. Die zweite Antwort geht also auf die erste Frage hinsichtlich der Frage nach Ort und Heiligen der Bischofskirche. Gibt es keine Regel Es gibt die Kirchen wie in Ravenna, die von vornherein in der Mitte der Stadt gegründet werden, die meistens, da sie eben nicht über einen heiligen Grab gegründet worden sind, keinen Titel Heiligen haben, sondern einen Titel nach den heiligen Personen, nach der Trinität, Salvator, oder beispielsweise wie in Ravenna, Himmelfahrtskirche oder Auferstehungskirche. Mhm. Und erst später wird durch Übertragung von Reliquien dann der Zusammenhang mit einem Titularheiligen hergestellt. Umgekehrt gibt es altchristliche Basiliken, Bischofskirchen, die außerhalb der Stadt auf Friedhöfen, das heißt auf dem Märtyrergrab, gegründet werden und die dann unter Umständen in die Stadt übertragen werden. Nun am Beispiel von Pavia, das sie jetzt sehr viel eingehender ausgeführt hat als vorhin, ich kann das aber so eingehend nicht wiedergeben, hat sie gezeigt, dass die Übertragung in die Stephanskirche, die möglicherweise schon im 6. Jahrhundert als neue Kathedrale gegründet worden ist und durch Verbindung mit der Marienkirche zu der Doppelkirche gekommen ist, von der vorhin die Rede war, durch die Übertragung der Reliquien des Bischofs aus dem 4. Jahrhundert, der als Schüler von Schülern schließlich mit Petrus verbunden wird, diese Kirche zwar als Kathedrale offiziell im Namen Santo Stefano e Santa Maria Maggiore behält, in Pavia von den Bürgern aber San Siro genannt wird, das heißt nach dem heiligen Bischof, der nun dort begraben ist. Das wäre also Veränderung des Patroziniums nur im Volksmund, aber nicht auch in der offiziellen Titulatur. Io vorrei pregarle di farmi una semplice illuminazione sulla figura di San Siro, che è anche protovescovo di Genova, è lo stesso personaggio che, come lei saprà benissimo, appare sui primi sigilli della città di Genova. È lo stesso o un altro San Siro? San Siro, also der auch der Stadtpatron von eine wichtige Rolle in der Stadt Genua spielt, auf den ersten Siegeln der Stadt Genua vorkommt, war es derselbe Syrus wie in Pavia oder war es ein anderer? La mia risposta vorrebbe essere un no assolutamente netto. E tende a essere un no. Io cioè credo che non si tratti dello stesso personaggio. Lo credo perché c'è una testimonianza, come lei certamente sa, molto precisa, che è quella di Gregorio Magno, il quale ci parla di una ecclesia genovese, o penso che parli di ecclesia o basilica, santi, siri, martiri, no, episcopi, perché c'è una variazione nei codici. Quindi in un certo, nel codice considerato, nei codici più autorevoli dei dialoghi, quelli su cui ha lavorato Moricca, è episcopi. Invece è martiris nei codici usati dagli editori della patrologia latina. Io personalmente credo che si tratti di due persone distinte, anche se il problema del rapporto di Genova con Pavia o di Pavia con Genova, legato alla questione della esulare del metropolita milanese e quindi di tutto un settore della Chiesa lombarda, diciamo per così in termini molto lati, della Chiesa lombarda a Genova, un sospetto lo può far venire. In realtà, che cosa sappiamo noi di San Siro di Pavia? Pochissimo, perché i cataloghi pavesi sono tutti molto tardi. Sono cataloghi che in gran parte si fondano su fonti molto prossime a Domicino, quindi XII secolo. Però quello che noi abbiamo sono stesure, quelle che noi abbiamo sono stesure del secolo, quando va bene, XV-XVI. I cataloghi sono cataloghi chiaramente farciti, perché dovendo retrocedere San Siro all'epoca apostolica, sono dovuti ricorrere al solito procedimento che si usa in questi casi. Siro non hanno osato duplicarlo, ma Ivenzio I, Ivenzio II, Massimo I, Massimo II, Crispino I, Crispino II, finché sono arrivati al punto giusto. In realtà, la sola testimonianza che noi abbiamo, l'autentica, di un culto tributato a San Siro, è un testo del IX secolo. cioè la vita accompagnata dalla traslazio. Ci sono reliquie, c'è una memoria di culto che però non è una memoria interrotta. Perché che cosa sia stato della chiesa dei Santi Gervasio e Protasio nei secoli della dominazione longobarda, noi siamo documentati fino a Ennodio. Quindi andiamo abbastanza bene. Ma da Ennodio fino a quando non esce fuori questo testo, noi di questa chiesa in realtà non sappiamo niente. Abbiamo delle evidenze archeologiche, mi consta che a Pavia stanno molto lavorando su questo, però è l'unica cosa che io posso dirle. Oggi come oggi non mi sentirei di escludere che in realtà siano la stessa persona. Io studiavo, quando l'ho studiato, il culto palese di San Siro, al limite la sua storicità, più ancora che nel caso di San Petronio, e lì era proprio dubbia, la sua storicità passava veramente in secondo piano. E più di tanto non mi sentirei di dirlo. Grazie. Prego. Die Antwort sollte negativ sein, dass also der heilige Vorgänger der Erzbischöfe von Genua und der heilige Vorgänger der Bischöfe von Pavia gleichen Namens auch die gleiche Person gewesen sind. Die Schwierigkeit für Pavia besteht darin, dass die Bischofslisten zwar vielleicht aus dem 12. Jahrhundert stammen, aber frühestens im 15. und 16. Jahrhundert in Handschriften des 15. und 16. Jahrhunderts überliefert sind und, wie es in solchen Fällen üblich ist, zwischen dem ersten, eben dem heiligen Siro, und den bekannten Bischöfen der späteren Zeit die da eingeschoben sind, es gibt zwar keinen Siro den Zweiten, aber die übrigen Namen, die dann eingeschoben sind, die sind dann mit zwei und drei versehen worden, um die Liste besser aufführen zu können. Es gibt entgegen diesen nicht sehr vertrauenswürdigen Bischofslisten ein einziges sicheres Zeugnis über den Kult des San Siro in Pavia, das stammt aus dem 9. Jahrhundert. Als Frau Rosselli dieses Zeugnis untersuchte, sei es ihr vor allen Dingen um den Kult des Heiligen gegangen, und nicht so sehr um die Frage seiner historischen Existenz. Ganz auszuschließen sei nicht, dass der von Genua und der von Pavia vielleicht doch derselbe Mann gewesen sind, aber sie hält es für sehr wunderschön. Ja, ich möchte noch eine Frage zur Seelsorge im Dom stellen. Und zwar, wenn ich das recht verstanden habe, dann haben Sie gesagt, dass in Pavia die Domkirche keine Pfarrkirche gewesen sei. Und es ist also in Bischofsstädten im Rheinland so, dass auch die Domkirche keine Pfarrkirche gewesen ist. Das heißt, sie ist nur Pfarrkirche gewesen für die engere Familie des Domes, also für die Bediensteten und für diejenigen, die zur Domkirche direkt gehörten. Aber eben das Domkapitel hatte sehr oft eben die Patronatsrechte in anderen Pfarrkirchen. Meine Frage geht jetzt dahin, ist die Tatsache, dass eben für Pavia der Dom nicht Pfarrkirche war, ist das jetzt ein Sonderfall für Pavia oder ist das hier üblich? Und vielleicht, wenn ich gleich da noch eine zweite Frage anhängen darf, Sie haben auch gesagt, dass die Klöster Seelsorgerechte haben. Ist das etwas, was in Italien üblich ist oder ist das auch wieder ein Sonderfall? Denn das ist etwas, was im Rheinland, wo ich es kenne, möglichst vermieden wird, den Klöstern Seelsorgerechte zu geben. Also Pfarrrechte zu geben. In der Stadt? In der Stadt, ja. Sono due punti che riguardano la cura animarum nella città. Il primo, se la cattedrale di Pavia non ha la cura animarum, il dottor von Luz si interesserebbe del fatto se questo sia un caso speciale o un caso comune per l'Italia, dato che nelle città vescovili renane anche le cattedrali non hanno la cura animarum se non per la famiglia della cattedrale, cioè del capitolo della cattedrale del vescovo. La domanda se per questo caso di Pavia sia, diciamo, un caso italiano o un caso pavese speciale. L'altra domanda, la cura animarum raccomandata nelle città, ai conventi o monasteri. Nella Renania, nelle città della Renania, si ha cercato di evitare questo, cioè di tenere i monasteri fuori della normale cura animale nelle città, per non ostacolare, diciamo, la cura animale dei parroci che anche nelle città vescovili renane tante volte erano competenza del capitolo cattedrale, però i monasteri non c'entravano. Anche qui la domanda, un caso speciale pavese o un caso italiano? Alla prima domanda tenderei a rispondere, se non un caso speciale pavese, però un caso abbastanza speciale. Ecco, questo. Alla seconda direi no. In linea di massima, per quanto io ne so, prevale invece, perlomeno c'è una tensione tra le due linee e certamente c'è una tendenza da parte del clero parrocchiale a ostacolare la presa di cura d'anime da parte di monasteri. Però la documentazione stessa pavese dà un notevole numero di cura animarum a conventi o monasteri. Erste Frage, wenn nicht spezifisch von Pavia, so doch etwas Besonderes für Italien. Frage also der nicht cura animarum bei der Bischofskirche. Zweite Frage, es habe zwar in allen italienischen Städten die gleichen Spannungen gegeben zwischen dem Weltklerus und den Klöstern, aber doch überall eigentlich die Übertragung von Seelsorge, Rechten und Pflichten auf Klöster. Chiedo scusa, non dice lei. Noi osserviamo che la cura animarum presso la cattedrale e presso i monasteri, noi lo troviamo per esempio a Bologna e lo troviamo a Venezia. Quindi due aree perfettamente diverse storicamente l'una dall'altra. Però troviamo questa cura animarum. E per Bologna, se mi è consentito aggiungerlo, per diciamo isocronicamente con Pavia. Quindi c'è quantomeno in Bologna und Venedig gibt es cura animarum sowohl für den Dom als auch für die Klöster. Und Frau Roselli hat noch hinzugefügt, in Bologna genau gleichzeitig mit dem von ihr geschilderten Pavia, genau das Gegenteil. Also jedenfalls ist Pavia nicht zu sehr, also in Bezug auf die Kathedrale, in Bezug auf die Klöster. Schutz wurde als ein zentraler Begriff auch jetzt wieder im Referat genannt. Verzeihen Sie, es ist schon spät und daher ist vielleicht es angebracht, eine Verbindung zwischen dem Referat von Herrn Direktor hier und dem jetzigen Versuchsweise herzustellen. Kann man sagen, dass jetzt nördlich der Alpen bzw. im tirolischen Bereich der Stadtherr, ob er jetzt Landesfürst ist oder Bischof, dass dieser Stadtherr an die Stelle des Heiligen im südlichen, im italienischen Bereich tritt. Dass also das gleiche Anliegen, nämlich jenes des Schutzes, im nördlichen Bereich eher handfester vom Stadtherrn vertreten wird, im südlichen Bereich eher, ja, wie soll man das sagen, mentaler vom Heiligen vertreten ist. Fa una domanda un po' complicata, cioè cercando di collegare le due relazioni di stamattina e di oggi pomeriggio, chiede in quanto alla protezione della città, se la protezione che nel Tirolo, nelle città tirolesi, veniva fatta o garantita dal signore della città, e nelle città italiane dal santo patrono, dall'uno in un modo diciamo molto concreto, nell'altro caso in un modo piuttosto ideologico, se ci fosse qualche parallelo o qualche collegamento possibile. L'esempio di Alessandria. Non lo so. Io non riesco, le confesso, a collegare due aree delle quali una mi è totalmente sconosciuta e me ne scuso, non ho nessuna esperienza di lettura di fonti tirolesi. Aber vielleicht io will mal versuchen eine Antwort zu geben, die keine ist. Die italienischen Städte sind stark genug, um selbstständig sein zu können. Ich sage ausdrücklich selbstständig, was kein juristischer Begriff ist. Sie versuchen, diese Selbstständigkeit zu garantieren durch Autoritäten, die sozusagen keine sind. Es gibt die berühmte Geschichte, die Milani erzählt, von Karl IV., der in Italien herumgereist sei und kaiserliche Privilegien verkauft habe wie ein Krämer. Und ich glaube, dieses gehört hierher. Man konnte nämlich dann sagen, der Kaiser ist unser Herr. Kein anderer Herr hat sich hier einzumischen. Der Kaiser war aber weit weg, er war ganz ungefährlich. Und so ähnlich ungefährlich wie der Kaiser ist der Heilige. Verzeihen Sie, wenn ich das versuche. Ich könnte jetzt hinzufügen, die Tiroler Städte waren nicht so stark, waren hier mit richtigen Stadtherren, sei es der Bischof oder der Graf von Görz oder sonst wer gewesen, ausgeliefert. Und insoweit haben die ganz handfest ihren irdischen Beschützer, während die anderen mehr einen ideellen Beschützer haben, sei es nun der Heilige oder der weit entfernte Kaiser, gelegentlich auch der weit entfernte Papst. Cerco di ripeterlo in italiano, non era una risposta alla domanda, però c'è il fatto che le città o i comuni cittadini italiani sono molto più forti di quelli tirolesi e perciò avevano paura di un signore proprio e vero, di un signore della città, finché potevano permetterselo. E così hanno come protettore un signore meno pericoloso, o quello soltanto ideale, il santo patrono, o un altro che nel 300 si vede benissimo, l'imperatore lontano e perciò non pericoloso. Comprano i privilegi imperiali da parte di Carlo IV, per esempio, e investono bene i loro soldi, direi, perché così guadagnano un signore che dà una protezione contro ogni competizione di un altro signore, perché più alto di imperatore non esisteva, però il pericolo di questo signore era quasi nullo, perché l'imperatore in Italia non aveva la possibilità di fare imperiale. Scusi. Non è che io voglia contestare l'intelligenza della ragionamento del professore, però mi sembra che il santo patrono esiste sempre laddove esiste una comunità che voglia differenziarsi dagli altri, da tutti coloro che, dal mondo circostante, senza bisogno di voler dire che si cerca la protezione di qualcuno che non può darla. Quando si è abbastanza forti non si ha bisogno di santo protettore. Perché il santo protettore non è un fenomeno tipico solo delle città italiane. Per esempio la Parigi della fine del mondo antico ha sicuramente in Saint-Denis e Saint-Geneviève dei protettori, no? Che poi quando Parigi non esiste più come entità autonoma, decadono, cioè non hanno più lo stesso significato anche se la Pia di Saint-Denis dura tantissimo. Quando Viduchindo parla della traslazione delle reliquie di San Vito nell'abbazia di Corvey e dice che con le reliquie è venuta la forza e che la Sassonia in pratica è protetta da San Vito, non vuol dire che la Sassonia in quel momento non sia, non ha, sia un qualcosa di paragonabile al comune italiano. Quando poi i polacchi incominciano a costruirsi un'identità intorno a Santo Alberto e i boemi vanno a rubare le reliquie di Santo Alberto per togliere questa base, no? C'è l'invasione della Polonia che comporta il rapimento delle reliquie. I polacchi devono fabbricarsi un nuovo santo protettore, che sarà San Stanislao, ci vedono circa un secolo. Però tutto questo è poco riconducibile al caso delle città-stato italiane, ma sempre a delle comunità che hanno una coscienza di essere comunità, di barra, o no? Sì. Impostato così, ha ragione lei. Io ho impostato la mia ipotesi al fatto che nella discussione sul Santo Patrono prima, una funzione importante di questo santo patrono era ricercata nella sua funzione di protettore del comune, protettore spirituale del comune. E proprio la protezione era il punto di partenza della domanda del sottofondo. E così, e lei ha fatto l'avvocato Schiavoli ribadendo che non c'è mai una causalità, una monocausalità nella storia, e in questo siamo d'accordissimo. Sì. Ich möchte vielleicht dazu noch sagen, die einzige Parallele, die man vielleicht ziehen könnte zwischen dem Stadtpatron der großen italienischen Kommunen und Tiroler Verhältnissen, das sind die Schutzpatrone der geistlichen Fürstentümer. Denn dort haben wir also ähnlich große Territorien, an deren Spitze zwar personell der Bischof, titelmäßig aber der Heilige steht, und das sind also vergleichbare Größen und vergleichbare Verhältnisse. Mit den Städten selber kann man hier sicher nichts anfangen. In Tirolia dice che la cosa comparabile in Tirolo al santo patrono di una grande città italiana sia il santo patrono del principato ecclesiastico in quanto tale, perché il principato ecclesiastico anche come territorio è comparabile al distretto di una città grande italiana, e così il santo patrono non il principe, non il signore, è quello che darebbe l'occasione ad una comparazione tra l'Italia e il Tirolo in quanto alle città. Ci sono altre domande? Non sono